World Trips, i viaggi del lupo. Eccoci qua in diretta su Radio Lupo Solitario, questo è Wolf Trips, con me Domenico Biancardi. Ci trovate sulla pagina Facebook di Radio Lupo Solitario o anche quella di Wolf Trips. Se ci state ascoltando via streaming o vedendo su radioluposolitario.it, e potete riascoltare tutti i podcast sul sito Mixcloud. Questa sera il viaggio di Wolf Trips toccherà generi come l'hip hop, la trap step e l'indie rock. Insomma, un viaggio molto ben variegato. Mettetevi comodi che partiamo con il brano di Ives, 172. When you're ready to come back, I'm all yours. When you're looking all around and all for stability. Making time for all your choice, or all your old excuses. I heard it all before. So are you lonely? So I'm supposed to be there. What about me? I thought we had cleared this all before. Wait until you let me show you all. Che abbiamo ancora sottofondo è Ives, una voce che trasmette molta tranquillità. Lei arriva dalla Nuova Zelanda e il suo brano 172 è qualcosa di davvero diverso dal solito, ma molto molto interessante. È un artista da tenere d'occhio per i prossimi mesi. Passiamo ora a un artista super eclettico, non saprei come definirlo altrimenti. Lui è Thundercat ed è un artista che mischia l'hip hop al funk elettronico. Questa è Fried Zone. You found me in the friend zone. E Thundercat, brano estratto dal suo ultimo album Drunk, ubriaco. Thundercat, all'anagrafe Steven Brunner, è un artista davvero eclettico, come dicevamo prima. Fonde diversi generi, passa dal jazz alla fusion, elettronica, hip hop e R&B. Insomma, proprio un gran mischione. Sicuramente non sarà il suo unico brano che incontreremo in Wolf Trips, ma questa Friend Zone mi piace davvero molto. Ora saliamo un pochettino di ritmo con Xylo e Get Closer, un brano che abbiamo già ascoltato nella puntata scorsa. You're so pretty on the small screen, but you look so different in the flesh though. You got the weight of the world on your ice cold shoulders, so it's so difficult to get an answer from you. When I say that, where have you been and how much you've been smoking? What do you mean when you say that you love me? Mm-hmm. questa era Get Closer, remix di Joey Mason. Gli Xylo sono un duo di fratelli, Paige Duddy e Chase Duddy, che hanno collaborato con i Chainsmokers. Il brano in questione è un remix, ma ha dato davvero una nuova veste e una nuova carica a questo brano che si intitola Get Closer. Continuiamo il nostro viaggio con BZP e la sua Genie. Body first. all'anagrafe Pedro Winter, ossia BZP, il manager dei Daft Punk e di Cassius, nonché il creatore dell'etichetta Headbang Records, rilascia questo nuovo disco con Mayer Hawthorne. Il brano è Genie, che abbiamo già conosciuto la scorsa settimana. Ricorda molto il funky anni 70-80, in chiave ovviamente più elettronica. E un altro artista che mi ricorda un po' questo brano, è sempre dell'etichetta Headbang Records, è Chromeo, che ha calcato questa strada qualche anno prima con la sua Fancy Footwork. Radio Lupo Solitario sempre con te? Vuoi interagire con le nostre dirette? Scarica l'app, è gratuita e disponibile per dispositivi iOS ed Android. Radio Lupo Solitario, keep your rock alive. Diane con Watch Picture Is For. Il trio che compone Diane è nuovo alle scene elettroniche e creano, con questo brano qui, creano un contrasto tra l'elettronica, quindi la musica, la computer music, e gli strumenti suonati dal vivo, che ovviamente non possono essere completamente perfetti, e da qui nasce un po' la fiction. Ora andiamo ad ascoltare un brano di Soul Walks con Missing Wires, che abbiamo già introdotto settimana scorsa. Questo è Wolf Trips con un bel brano dei Soul Walks, progetto live dei Too Many DJ. Il 24 marzo è uscito il loro nuovo album, quindi da pochissimi giorni, che contiene proprio questa Missing Wires. L'album parte, diciamo, l'idea dell'album parte dal loro tour che li ha visti suonare live per tutta l'estate, e con questi synth, con questi suoni, hanno deciso di comporre i brani di questo album. Missing Wires mi ricorda particolarmente i Daft Punk, e oggi ascoltiamo proprio uno dei dischi di punta, diciamo, di Daft Punk, comunque quello che li ha resi più famosi, che si chiama Da Funk. Questo è Wolf Trips. Facciamo un bel salto indietro nel tempo, nel 1995, a quasi 3 anni dalla formazione dei Daft Punk, con questo brano Da Funk. Gruppo che ovviamente cambierà per sempre il concetto di musica elettronica, scrivendo diversi album, diverse anche tracce per film, e creando anche, sembra anche un fumetto che era Interstellar. Da Funk è estratto dal loro primo album, quello di debutto, Homework, un album stupendo che ascolto ancora volentieri, con suoni minimalisti, vocoder, tastiere dance, che ne fanno proprio il marchio di qualità e di fabbrica dei Daft Punk. Torniamo quasi ai giorni nostri, non proprio al 2017 ma al 2015, con un remix di Grammatic e di un bellissimo pezzo di Madeon. Questa è nuova in Wolf Trips, You Are On. was losing hope, but you felt the same. And it's been so long since I've seen your face that I'm out of my mind. I've been replaced. Get up on that train, come and stay. funky è la parola chiave delle tracce di questa sera della puntata di Wolf Trips. E loro sono i French Horn Rebellion, due di musicisti che suonano live e mischiano molto l'elettronica alle loro performance. Il loro stile mi ricorda molto quello dei Basement Jacks e soprattutto nel brano Right Here The Spot, famosa per il remix di Switch. Qui l'ascoltiamo nella versione originale. With a lick of thang, love them with your body like this. I wanna make you dance and feel my effect, yeah. Yeah. Move your body, yeah. Questi sono i Basement Jacks con un brano estratto dall'album Kish Cash del 2003. Lo stile proposto è quello ripreso in molti brani di oggi, come quello che abbiamo sentito prima dei French Horn Rebellion. Cambiamo leggermente genere e passiamo a un mischione tra elettronica e progressive con Cloud Chord.

of the night, but it's the only way of life. It's black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black, black sky. Maybe you should come with me, I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the night. Del lupo. E l'ultimo pezzo di oggi era di Unlike Pluto, un produttore di Los Angeles con questo nome un po' particolare. La sua nuova traccia Everything Black è l'unione perfetta tra il soul e l'elettronica. Per oggi è tutto col nostro viaggio nella musica underground, e Wolf Trips rinnova l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 20 alle 21 su Radio Lupo Solitario. Ciao!